Ma la cosa è molto urgente, ho una voglia travolgente di far costo la frittata, per amore e per l'onore della vera libertà. Oh mio bene, ci conviene di far senza povestà. Andò, poi fa, si sbaglia. Che bella voce, sembri la tratta dal monte. Viaggio, adagio, andiamo adagio, viaggio, andiamo, tenore il mal passa. Adagio, adagio, tanto adagio non può andar, chi va piano non può arrivar. Quando poi saremo sposini, noi faremo tutto in fretta. Noi saremo gli orbicini, ma saremo pure vestini, se non sarebbe che fossi. No, per l'acqua, per l'onore della patria potestà, ne assai bene ci conviene far signori in quantità. Ah, meno male che sei gonfiata. Viaggio, adagio, andiamo adagio, tanto adagio non può andar, chi va piano non può arrivar. Viaggio, adagio, andiamo adagio, viaggio, adagio, viaggio, andiamo, che no del mal facciamo. Adagio, viaggio, viaggio, adagio, tutto questo si farà, ma con gran velocità. Prova a cara di far più presto. Viaggio, adagio, andiamo adagio, viaggio, adagio, viaggio, andiamo. Se non del mal facciamo, adagio, viaggio, viaggio, adagio, tutto questo si farà, ma con gran velocità. Oh!